E un saluto da Max Macchia per 451 frammenti sonori, Radio Città Fujiko. Nel frattempo, come dire, visto che siamo un po' in clima fragostano, faccio gli auguri anche ai miei, a chi mi ha preceduto, a Blue Evening, che sono sempre, insomma, tremendamente gentili, tanto da mettermi quasi in imbarazzo, quindi però no, non proprio auguri natalizi, perché se no poi dopo, come dire, la mia allure dark eccetera se ne va a far friggere, quindi non è il caso. Oppure non so, magari una frittura sì, ma di capitone, magari napoletana style tipo il 31, ecco. E 451 frammenti sonori che accantona decisamente, insomma, il Natale, quindi per questo, insomma, diventa vittima del Natale. Non c'è modo di scampare, perlomeno a queste latitudini, a questa roba qua, quindi come dire, però farò finta, insomma, e quindi la chiudo veramente qua la parentesi. Un 451 che si chiama Buon Natale, no scherzo, e 451 Motoric 2, o potremmo anche chiamarlo Acid Motoric, visto che tratteremo sì quel suono che viene soprattutto da formazioni come Noi, come Ella Dusseldorf, le prime cose di Michael Rother, i maestri che hanno dato vita a quello che è una filiazione direi eccezionale, magnifica anche del suono già cosmice, kraut, che verrà poi negli anni Ottanta così per certi versi accantonato, anche se poi molta musica industrial e anche certe forme così laterali di techno-pop utilizzeranno delle ritmiche motoriche, ma soprattutto, insomma, in ambito di industrial, e poi quello che sarà faccenda legata a tutta la post-industrial, e quindi dal new beat belga a certe sonorità che andavano a impattare evidentemente anche con la techno, con anche un mondo acido che poi sembra magari molto, molto lontano, in realtà poi se pensiamo a certe cose di Ron Trent, ma anche a certe incendi di Future 303 ad esempio, beh, questo in un certo qual modo sono figli non delle stelle ma appunto una sorta di motoric acid che è durato anche piuttosto poco, se vogliamo considerarlo appunto dentro l'acid di Chicago, appunto di metà anni 80, poi tra una sorta di cambio che c'è stato, anche una sorta di esaurimento di quello che era poi un reset delle macchine, e una preset anzi delle macchine che andava un po' svilendosi, nel senso fin troppo utilizzato, e tant'è che appunto i detroitiani dissero sì, bella Chicago, belle le cose, ci hanno influenzato, e quindi anche danno una sorta, insomma, di primogenitura, potremmo dire, proprio a Chicago in termini di dance nuova e radicali, anche perché la prima acid era decisamente radicale rispetto appunto a un house che poi diventerà tutt'altra faccenda, che appunto da lì a poco, alla fine già degli anni Ottanta, si tramuterà poi in un suono decisamente pop per molti versi, o comunque con un allontanamento anche da suoni e da strutture radicali, appunto come quelle di citavamo prima di Trent, di le prime cose di Lewis, addirittura certe cose di Nichols, anche se poi dopo appunto ammorbidirà molto la faccenda. E Motoric, quindi, che viaggia all'interno di una sorta di acid dei nostri giorni, quasi a voler forse riprendere un suono che appunto si è esaurito per un preset, quindi per una forse non capacità più di adoperare la macchina in maniera futuristica e soprattutto spostarla verso appunto esperimenti che potessero dare attraverso appunto altri preset quelle sonorità che sono state sviluppate da lì a pochissimo proprio dalla techno di Detroit, ma anche da molta techno europea, anche con varie radicalità rispetto a quel suono primigenio e a uno sviluppo ulteriore del motoric, se pensiamo a certe cose di Plastic Man, se pensiamo a certe cose di Pansonic, quindi un attraversamento degli anni 90 e anche una parte degli anni 0, e poi questo rimando dentro i noise americani degli anni 0 e poi fino ad arrivare insomma più o meno ai nostri giorni con anche astrazioni che si spostavano quindi da una forte ritmica appunto motorizzata, se vogliamo così metterla molto sul semplice, e diventava una sorta di ritmica più mentale, più astrale per altri versi. In questi giorni appunto si sente ovviamente dentro un underground che comunque continua, che se ne voglia dire, comunque a essere piuttosto vivo e anche a volte con quella capacità di smuovere, di terremotare anche, certo, la congiunzione e il collegamento con il mainstream oramai è andato da un po' di tempo, ma tant'è che forse in questo senso, quindi con veramente una sotterraneità che spinge e può spingere ancora di più verso una ripresa appunto di quelle che furono ali per appunto detroitiani motorizzati e appunto portati verso un suono che diventava sempre più astrale, tanto più diventava anche ritmico e tanto più si spostava appunto su situazioni musicali veramente inaudite e futuribili, appunto, anche come abbiamo trattato nelle scorse trasmissioni. Share che andiamo a ascoltare adesso, andiamo a trovare appunto una Detroit inacidita, dopo troveremo senz'altro quello che accennavo prima appunto rispetto a Chicago, e una shake appunto, perdonatemi insomma il bisticcio di parole, di quello che può essere un suono motoric portato a una sorta di impatto, di wall of sound, poi un'apertura stellare veramente degna di cosmici degli anni 70, appunto dei grandi padri appunto di questo suono, ma forse per meglio dire di questa attitudine eccezionale appunto che è passata appunto come musica o suono o appunto attitudine più generale motoric. Beh, per chi anche per sbaglio è passato da qualche rave, beh, probabilmente avrà, come dire, avuto una sorta così di ritorno al futuro, a quello appunto, che è stato dei momenti, insomma, più esplosivi, per quanto riguarda appunto la generazione che ha attraversato in maniera elettronica gli anni 90. Poi ce ne sono anche altri, ma poi anche questa è una faccenda, insomma, che ci porterebbe a parlare anche invece di commissioni decisamente importanti, come quella di Primal Scream, ad esempio, con di Waterhole, e varie faccende, che potrebbero anche rientrare dentro un certo post-punk, che aveva ascoltato anche c'è certo appunto suono dei noi, certo motori, che appunto, essendone anche influenzati, se pensiamo come Youth, insieme a Lex Patterson, Jimmy Cauty, formassero con le primissime faccende di Orb un suono veramente spaziale, tra rimandi psico e anche geografici, perché no? Ma comunque, di fatto, spostando quelle che erano appunto anche un background appunto da post-punk verso uno spazio insomma siderale, portato a una sorta anche di motoric, con tra l'altro i loro passati, chi dentro Killing Joke, chi dentro varie formazioni post-punk di Manchester. E sicuramente c'è anche retroterra, quindi che viene da Detroit, per quanto riguarda una delle figure più importanti, Anthony Shakir, che abbiamo sentito con Shake, il suo progetto, che è stato tra l'altro tirato fuori proprio per questa compilation che è NCC Record, NCC Compilation. Quindi, perché questa compilation? È una compilation fondamentale, perché dentro la mente di Ron Murphy, quello che era appunto il motoric di NCC Record, c'era anche buona parte della techno, e poi con una pratica eccezionale. Ron Murphy è uno che ha inventato gli echi in Walk on By, la storica cover, ma si fa per dire cover, visto che diventa veramente uno dei pezzi più incredibilmente psicofunky, si siano mai sentiti, di Isaac Hayes, che appunto porta sulle stelle e anche oltre, appunto, Burt Bacharach, tramite un suono di Ron Murphy, che riesce veramente a portare in maniera stellare, anche un cantato decisamente terreno come appunto quello di Isaac Hayes. E qua ci riporta anche un discorso, che, se vogliamo, è anche prima di quello che fu anche la formazione post-punk detroitiana, ma diciamo più vicino all'elettro, e quindi a una sorta di mutazione del primo se vogliamo approccio hip-hop, e quindi del primo punk nero, se vogliamo metterla su questo aspetto appunto tra punk, post-punk come attitudine, come d'altronde stasera stiamo parlando di un'attitudine fondamentale, appunto come quella appunto del motoric. E Ron Murphy poi si darà a questi giovani nella metà degli anni 80, Derek May, Joan Atkins, e quindi a quelli che hanno fatto poi la storia della techno. Lo stesso Anthony Shakir, che appunto aveva esordito in Techno, The Dance Sound of Detroit, la compilation storica della Virgin, tra l'altro, che era ancora insomma attenta da lì a pochissimo, poi sarebbe stata più attenta appunto soltanto al commercio, ma da vecchi fricchettoni come erano. Ricordiamo che la Virgin produceva gruppi come Harry Cole per dirvi, ma durante insomma il punk immediatamente successivo alla primissima onda ci furono appunto varie produzioni, arrivando appunto a vario post punk e avendo anche, tra l'altro, mo ci vuole, non la primissima, le primissime cose, ma immediatamente dopo anche Sex Pistols, tra l'altro. Ma vabbè, questo è un discorso all'ater, seppur anche qua c'entra il Motori, che John Lydon, grande ascoltatore all'epoca Johnny Rotten di noi, e quindi come dire, la quadratura di un cerchio che comunque non vogliamo appunto far quadrare, tantomeno qua stasera. NCC Record appunto, con NCC Compilation, Ron Murphy, questo pazzoide incredibile, che ingegnere del suono nel vero senso della parola, proprio fattivo creare genie su pezzi, come fece appunto con Welcome By di Zach Hayes, ma come fece anche per molti suoni della techno, che appunto andavano proprio da personaggi fondamentali come appunto citato May e Atkins, andavano proprio da Ron Murphy a chiedere come incidere appunto quel suono su quel vinile, quindi è come avere quell'effetto poi sonoro, quindi anche proprio una sorta di razio musicale applicata a musiche che insomma spingevano verso il futuro, come d'altronde quella di Hieroglyphic Bane, avevo detto prima Chicago. Beh, in effetti è uno dei grandi figli di Chicago, un Motorik qua che appunto attraversa i vari anni, gli stessi anni tra l'altro di Hieroglyphic Bang, che viene insomma da lontano appunto, anche in termini proprio di soprattutto anzi in termini di riferimenti musicali, e quindi di quella storia che fu appunto la Chicago Tracks soprattutto, e quelle macchine incredibili a 303 che portarono appunto questo suono verso immaginazioni ancora non udite, e che appunto quasi a voler ripercorrere in termini appunto di attitudine, mettendoci tanto di quello che dopo è avvenuto e soprattutto avendo una testa decisamente Motorik, raggiunge con questo Red Note veramente livelli decisamente macchinici interessanti e appunto degni di non soltanto di essere ascoltati, ma di essere poi proiettati in termini appunto di futuribilità. Hieroglyphic Bang. Thank you. Lavoro veramente eccezionale quello di Hieroglyphic Bang, che viene appunto dalla vecchia scuola, potremmo dire, dalla school appunto di Chicago. È stato un collaboratore di Steve Poindexter, storico membro di quella Chicago più acida, quella anche che ha traghettato per molti versi quel suono appunto acid già straniante verso lidi nuovi, appunto coniando un acid techno che non ha mai avuto successo in termini, insomma, di categoria, se vogliamo, appunto di brand rave, per fatemela passare, insomma, è chiaro che è una forma di ossimero, e se non lo trovate, insomma, preoccupatevi, nel senso che, insomma, il rave lo intendiamo come facendo appunto underground di base, e insomma con uno spirito anche decisamente alternativo, se non addirittura antagonista per molti altri versi, e quindi appunto non va tanto con la brand invece commerciale, ma tant'è, insomma, che l'acid techno faccenda, insomma, elaborata soprattutto da pochi. Beh, Steve Poindexter è stato senz'altro uno di quelli, e Hieroglyphic Bang, ovvero il nostro Jamal Hermos, veniva proprio da Chicago Bad Boys, dove appunto Steve Poindexter stava sperimentando quel suono eccezionale a metà degli anni 90, che era veramente molto alieno già rispetto a quello che era stata la prima acid house di Chicago, e anche alla techno, una via del tutto particolare con veramente tanto di suono motoric dentro. E poi quello che adesso è conosciuto come Hieroglyphic Bang, appunto Jamal Hermos, dentro a Dirty Criminals, che magari avremo modo, insomma, di inserirli prossimamente, e poi un po' di progetto suo che stava portando avanti da poco tempo, diciamo, per tanti versi, in termini perlomeno di fama. Comunque siamo intorno alla fine degli anni zero, ma sicuramente adesso se ne sta parlando in maniera particolare, soprattutto uno dei dischi degli ultimi mesi, questo Red Note, che ha fatto, insomma, discutere, per quanto, insomma, poi le discussioni, come dicevo prima, non c'è più quel canale appunto tra underground e mainstream, quindi diventino poi come dire parcellizzate, ecco, anche se con una spinta decisamente universalistica in termini di appunto ricerca sonora, in termini appunto di motorica avviato, in termini di attitudine sperimentale verso sonorità che si aprono veramente a mille aspetti, come d'altronde Mutant Beat Dance. Beh, dentro, c'è dato prima Dirty Criminals, c'era anche appunto uno dei Mutant Beat Dance, cosa piuttosto strana, Bo Walzer insieme a Jason Letklevich e Melvin Olifan, che appunto mente di Dirty Criminals, insieme a Hieroglyphic Bang, all'epoca, insomma, più per conosciuto come suo nome, come Jamal Hermos. E appunto questi due invece europei che si uniscono con uno storico di Chicago, conosciuto anche come Trax con 2X, anche questi lavori eccezionati. Mutant Beat Dance, anche questo disco più recente, tra l'altro, di quello Hieroglyphic Bang, strepitoso nel suo aprirsi verso sensazioni motoric e anche allusioni motoric verso un suono anche wave, addirittura post-industrial, rispetto a certi Chris & Co che si sentono, ma anche certi suoni poi cyberpunk, elaborati da ad esempio Clock DVA, veramente tanti attraversamenti che Mutant Beat Dance portano un nome che potrebbe essere anche così un po' troppo banale per quanto altisonante. In realtà, insomma, c'è in effetti proprio della Mutant Beat Dance dentro questo progetto che appunto ha sfornato qualche mese fa, nel 2018, che ci sta abbandonando tra l'altro, Mutant Beat Dance, appunto il disco omonimo, da dove andiamo appunto a ascoltare uno dei pezzi che attraversa un po' quello che stavo dicendo, appunto tra Motoric, Wave, che sono spostate verso una sorta anche di Minimal Synth Wave, Cold Wave, di musiche appunto post-industrial, un suono noir che attraversa l'acid, quindi in maniera piuttosto senza pastiche, senza quindi un disegno un po' postmoderno, ma con una, anche con una preoccupazione, con insomma una certa gravità che rende queste musiche decisamente interessante anche a termine proprio di visione, di oltretutto che di sperimentazione appunto sonora. Mutant Beat Dance. Thought of talking other ways. Mutant Beat Dance con appunto questo lavorare su una motorica che però va a impattare ovviamente con un mondo acido, ma acidificato potremmo anche dire, come d'altronde anche da parte di personaggio che stampa da invece poco tempo, non rispetto a Mutant Beat Dance che è proprio recentissimo, ma rispetto al nostro Trax appunto che abbiamo trattato prima come Melvin Oliphant, cioè citandolo insomma, poi dentro appunto Mutant Beat Dance, Joey Anderson, giovane artista in termini di produzioni perlomeno per quanto riguarda appunto un suono che va a impattare un tanto motoric come con tanto acido e con appunto una mente che evidentemente si sposta su degli altrovi. Anch'io vi rimando un altrove che sarà il prossimo anno 2019. Max Macchia quindi vi saluta dagli studi di Radio Città Fujiko, oppure da dove diavolo mi state ascoltando va benissimo, insomma, così va bene, e anzi va, forse anche meglio, non lo so, comunque va bene, e fate bravi e ci risentiamo insomma tra non molto, tra l'altro anche magari parlando di nuovo anche di Joey Anderson, sempre ammesso e non concesso che vi piaccia la faccenda, ma credo proprio di sì. Nel frattempo ascoltatevi qualche minutino, Max Macchia vi saluta, ciao, fate i bravi.